America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Xi Jinping, il nuovo presidente cinese a Boao, dove c'è stato ieri un importante convegno, dove ha pronunciato un discorso importante sul piano economico, ma altrettanto importante sul piano politico, perché ha diretto per la prima volta un messaggio non esplicito, molto indiretto, ma comunque un messaggio alla Corea del Nord. In particolare ha detto: a nessuno dovrebbe essere consentito di gettare una regione o addirittura il mondo intero nel caos per dei vantaggi egoistici. Ecco, non ha aggiunto altro, è difficile che i cinesi possano attaccare direttamente la Corea del Nord, che è un alleato importante, una pedina molto importante nel contesto geopolitico della regione, ne avevamo parlato già venerdì scorso. Anzi, qualcuno potrebbe anche immaginare che, chissà, forse questo messaggio magari è indirizzato agli Stati Uniti, che hanno fatto seguire a queste minacce nordcoreane una escalation militare. E sappiamo che c'è stato un braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti, con Washington che è riuscito a spostare una partita piuttosto importante sul piano diplomatico, perché ha spostato la crisi nordcoreana su un tavolo negoziale con la Cina, mettendo di fatto proprio la presidenza di Xi Jinping davanti a una scelta difficile: o la Cina interviene con decisione sulla Corea del Nord, o dovrà accettare una forte escalation della presenza militare americana nel teatro asiatico. Anzi, l'America avrebbe mostrato alla Cina, queste sono indiscrezioni raccolte in esclusiva dal New York Times, proprio i programmi di potenziamento militare. C'è stato un viaggio un paio di settimane fa di funzionari americani a Pechino, avevano i documenti, le foto, le proiezioni, le immagini, le tabelle di quello che sarà il potenziamento militare americano nella regione, e dunque gli Stati Uniti così cercano di capitalizzare su un possibile cambiamento di umore in Cina, perché questa leadership cinese, insomma, è annoiata da queste sgangherate dimostrazioni di forza di Pyongyang. Dunque questa dichiarazione di ieri in qualche modo risponde all'America. La risposta a questo punto è venuta più chiara da un altro funzionario cinese, Hong Lei, del Ministero degli Esteri, e dunque un gioco di sponda tra il presidente, che esprime dei concetti di massima, e il Ministero degli Esteri, che spiega. Ha detto: attualmente, una dichiarazione scritta, attualmente le tensioni nella penisola coreana continuano ad aumentare e la Cina esprime grave preoccupazione per quel che sta succedendo. Il governo cinese ha già richiesto che la Corea del Nord agisca in base alla Convenzione di Vienna per ciò che riguarda le relazioni diplomatiche e altre pratiche e leggi che riguardano il diritto internazionale, garantendo la sicurezza dell'ambasciata cinese, del personale consolare e così via, così via. Dunque, secondo me, il messaggio qua è piuttosto chiaro. La Cina ha risposto alla richiesta americana, ha dato il suo contributo, ha ammonito la Corea del Nord. Vediamo che risultati ci saranno a breve. Spending by households and businesses has continued to expand and the housing sector has seen further gains. Il governatore della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, perché è uscito il tasso di disoccupazione venerdì scorso, non abbiamo avuto occasione di parlarne, non è andato bene. La crescita dei posti di lavoro in America è stata soltanto di 80.000 unità contro i 200.000 nuovi posti di lavoro attesi, dunque un dato preoccupante, ma un dato che confermerà la politica monetaria della Fed accomodante per un bel po'. E dunque gli Stati Uniti fanno di tutto per sostenere una ripresa che va avanti, che ha prodotto nuovi record in borsa, ma che ha comunque delle sue espressioni di fragilità. Ed è qui che la questione economica americana si collega alla questione economica cinese. Di nuovo Xi Jinping. Il tema centrale del suo discorso di ieri, a parte questo messaggio molto chiaro sul piano diplomatico alla Corea del Nord, il suo discorso è stato soprattutto un discorso economico. Il leader cinese ha ricordato che negli ultimi 13 anni i rapporti commerciali della Cina con i paesi vicini sono cresciuti di oltre 100 miliardi di dollari all'anno, sono ormai a un livello di 1.300 miliardi, e hanno trasformato la Cina nel più importante partner commerciale, nel più importante esportatore, nella più importante fonte di investimento per molti dei paesi vicini. Dunque la Cina, e il messaggio di Xi, diventa il volano della crescita asiatica, il colosso attorno al quale questa crescita si è sviluppata e continuerà, ha sottolineato, a dare i suoi effetti positivi negli altri paesi asiatici. Poi un'altra serie di dati, sempre Xi Jinping che parla, dice abbiamo stimato che nei prossimi 5 anni la Cina importerà 1.000 miliardi di beni e servizi, effettuerà investimenti fino a 500 miliardi di dollari e ci saranno 400 milioni di turisti cinesi che andranno in giro per il mondo. Dunque prepariamoci da qui ai prossimi 5 anni a una invasione cinese. Questo non potrà che fare bene alla nostra economia e dunque più la Cina si sviluppa, più si sviluppano opportunità, ha detto il leader cinese, per l'Asia ma anche per il mondo intero. Ecco perché si chiude il cerchio attorno a queste dichiarazioni, perché non è nell'interesse di Pechino né di alcun altro paese della regione asiatica che il leader coreano Kim Jong-un la faccia da protagonista, minacci gli Stati Uniti, faccia dichiarazioni di guerra alla Corea del Sud, sposti le sue piattaforme missilistiche nella costa orientale, mantenga un esercito di 1 milione di uomini che può essere mobilitato fino a 8 milioni di persone. Insomma, forse la Cina si è stufata, forse siamo a una svolta. La partita però non è una partita semplice per Pechino. Perché? Perché se si attacca molto direttamente alla leadership di Kim, il pericolo è di destabilizzare il suo governo, magari fomentare una ribellione che potrebbe portare in tempi brevi a una caduta del regime comunista a Pyongyang, magari a una riunificazione con la Corea del Sud. Questo scenario devastante per Pechino, perché in un sol colpo perderebbe il controllo di una zona di influenza molto importante per lei, a vantaggio della Corea del Sud e degli Stati Uniti. D'altra parte, breaking news. Interrompiamo Mario Platero per un istante dalla redazione perché c'è una notizia appena data da Sky News. Sarebbe morta l'ex primo ministro britannico Margaret Thatcher. È la prima notizia battuta, dicevamo, da Sky News. Cercheremo di informarvi anche a partire da tra pochissimo nell'edizione delle 14. Ci sarebbero 1.000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, il nuovo film The Great Gatsby, o meglio il remake del Great Gatsby con Leonardo DiCaprio. Si prepara al debutto nelle sale americane 10 maggio, siamo ormai a un mese. Nel frattempo abbiamo la colonna sonora, 14 brani interpretati da Jay-Z, Beyoncé, Jack White, Lana Del Rey, WX and Gotye, di Beyoncé, Crazy in Love. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!